2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 29 novembre 2008, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. In questa puntata parleremo di alcune novità di mercato, alcune novità che riguardano anche la macchina pubblica, in particolar modo quella della giustizia. Più tardi sarà con noi Gianluca Dettori per parlare di finanziamenti alle nuove idee che nascono nel mondo di internet, nel mondo digitale italiano. Dettori ha fondato Vitamini, che è un grande esperto del mondo della rete, del mondo digitale, sarà con noi nella seconda parte del nostro programma. Tra poco parleremo anche del nuovo BlackBerry Storm, l'ultimo nato, il primo touchscreen di BlackBerry, un prodotto sicuramente molto interessante per il mercato, anche per il mercato consumer, per un'azienda che spesso viene vista come molto legata al mondo business. Vi ricordo che la prossima settimana ci occuperemo di TV digitali, di TV piatte. Il mercato è molto complicato e quindi cercheremo di chiarire alcuni concetti di base per far capire ai consumatori come acquistare una TV magari per il prossimo Natale. Il 13 dicembre ci occuperemo invece in larga parte, in buona parte della trasmissione, di telefonia mobile. Partiamo oggi con una notizia che arriva da Bruxelles, dati dell'Unione Europea, la diffusione della banda larga continua a crescere in Europa. Secondo i dati della Commissione Europea, a luglio 2008 rispetto al 2007 la diffusione del broadband è aumentata del 19,3%. La Danimarca e l'Olanda restano leader in materia di banda larga con una penetrazione superiore al 37%. Questi due paesi, oltre al Belgio, la Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Regno Unito e Svezia, hanno una penetrazione maggiore degli Stati Uniti, la media europea è di quasi il 22%, mentre l'Italia è ferma al 18%. E questa non è certo una buona notizia se, come dimostrano molti studi, come ampiamente è ormai dimostrato, la diffusione di internet è strettamente legata allo sviluppo economico. Tra i dati diffusi oggi dalla Commissione Europea emerge una crescita in Italia della banda larga per tecnologie mobili come le reti UMTS, il 3G. Nel nostro paese la penetrazione della banda larga mobile è del 12,7% sopra la media europea che si ferma al 7%. In questo caso non siamo però i leader in assoluto perché la diffusione della banda larga mobile, quindi utilizzando un telefonino oppure una chiavetta UMTS per il proprio computer, dunque la diffusione è maggiore in Spagna, la Spagna fa il record con il 19%. Sulla diffusione della banda larga in Italia e sui prossimi sviluppi della tecnologia, Stefano Totoro ha intervistato Paolo Bertoluzzo, che è amministratore delegato di Vodafone Italia. Ma la larga banda mobile vede in Italia un mercato nel quale la crescita c'è, importante e significativa. Noi oggi come Vodafone abbiamo presentato una nuova generazione di larga banda mobile che arriverà sul mercato verso la primavera, che consente di arrivare a velocità fino a 14,4 megabit al secondo in mobilità e ovviamente anche da casa e dall'ufficio se un cliente lo desidera. È un passo che riteniamo essere molto molto importante, che si inserisce all'interno di un percorso evolutivo della larga banda mobile che vedrà nei mesi e negli anni prossimi ulteriori gradini fino ad arrivare a quella famosa tecnologia che si chiama di quarta generazione, che i tecnici chiameranno LTE e che dovrebbe portare fino a velocità teoriche superiori ai 100 megabit al secondo. Quali sono le carenze e le sfide della banda larga in questo momento? Ma allora qui bisogna distinguere tra larga banda fissa e larga banda mobile. Allora io credo che la larga banda mobile goda in Italia di un momento molto positivo e da questo punto di vista l'Italia è avanti rispetto a tutti gli altri paesi europei. Per quanto riguarda la larga banda fissa invece abbiamo una situazione che è all'opposto, l'Italia è indietro rispetto a tutti gli altri grandi paesi europei e crediamo che qua ci sia ancora una sfida importante di apertura del mercato. Noi come Vodafone è da pochi mesi che siamo attivi anche nel mondo della larga banda fissa ed è un mercato decisamente difficile dove la totale libertà di scelta del cliente, la possibilità di dare un servizio di qualità al cliente non sono ancora garantite e crediamo che sia un tema molto importante da affrontare. tema che si intreccia con il futuro della rete di telefonia. Stiamo parlando di telefonia fissa, la rete che viene utilizzata appunto per accedere ad internet, e poi anche con il futuro di Telecom Italia, di come l'Italia e gli altri paesi, perché in questo caso non siamo sicuramente indietro, il dibattito è acceso in tutta Europa e in tutto il mondo, potrei dire, dicevo, come l'Italia e gli altri paesi affronteranno la costruzione delle cosiddette reti di prossima generazione. Di questo abbiamo già parlato, sicuramente torneremo a parlare anche in altre puntate di 2024, visto che il tema è sicuramente molto molto importante. Ci sono altre notizie che arrivano da Bruxelles. Dal luglio 2009 gli SMS inviati dall'estero, quando siamo in roaming, costeranno al massimo 11 centesimi. È stato deciso anche un tetto per le connessioni dati a proposito di banda larga mobile. Il prezzo massimo all'ingrosso, quindi il prezzo che gli operatori pagano nel loro mercato, quello all'ingrosso, non quello al consumatore finale, comunque il prezzo massimo all'ingrosso per megabyte è stato fissato in 1 euro. Ancora molto alto, ma c'è comunque almeno oggi un limite di legge. Una notizia che arriva dagli Stati Uniti è relativa ad una delle più autorevoli riviste di informatica del mondo. PC Magazine abbandonerà la carta e andrà solo online a partire da febbraio 2009. Cose che stanno succedendo negli Stati Uniti e che sicuramente cominceranno a succedere tra qualche anno anche in Italia. Parliamo invece di una rivista italiana dedicata al mondo Apple. Applicando, che fa parte del gruppo 24 ore, lancerà a partire da lunedì un allegato dedicato all'iPhone. Ne parleremo prossimamente anche a 2024, comunque appunto vi anticipo che da lunedì troverete in edicola assieme ad Applicando questo allegato dedicato all'iPhone. Vi ricordo anche che il prossimo giovedì esce il libro del Sole 24 Ore dedicato a Facebook, il sito di social network creato nel 2004 da uno studente 19enne dell'Università Americana di Harvard, sito creato in un primo momento per digitalizzare, diciamo così, i libri che contengono le foto degli studenti delle università americane, i cosiddetti Facebooks, appunto sono libri dove ci sono le fotografie di tutti e che vengono diffusi con lo scopo di favorire le amicizie interne o comunque di riconoscersi a vicenda. Dal 2006 l'accesso al sito venne esteso a tutti, quindi non solo agli studenti, col risultato che oggi Facebook è uno strumento per creare e mantenere relazioni non solo appunto tra studenti di alcune università americane, ma tra persone sparse in tutto il mondo. Un vero e proprio fenomeno che in questi mesi sta vivendo forse l'apice del successo, almeno per l'Italia, tutti ne parlano. Molti si chiedono se continuerà ad essere così frequentato anche in futuro o se farà la fine di altri social media. Pensate ad esempio a Second Life, ancora attivo, ancora frequentato, ma molto ridimensionata rispetto ad un anno fa. Un recente articolo di Wired, la rivista di riferimento per il mondo internet, ha scritto ad esempio, in un recente articolo abbiamo letto che i siti come Facebook fanno apparire obsoleti i blog, quindi alcuni ipotizzano che tra qualche anno ci sia qualche cosa di nuovo che mandi in soffitta Facebook. Vedremo. Ci sono poi da considerare anche gli aspetti negativi legati ai dati personali, visto che Facebook se ne appropria per sfruttarli commercialmente. Per ora la consapevolezza di quanto valgono i nostri dati personali non è molto diffusa, ma dovrebbe diventarlo mano a mano che cresce il business legato ai nostri dati. Business a volte, diciamo spesso legale, ma a volte anche illegale. Business legato alle nostre abitudini, ai nostri gusti, per poi venderci e veicolare pubblicità dedicata. Non è una cosa completamente negativa, l'importante è esserne consapevoli. Alcune domande se le fanno anche i proprietari di Facebook, visto che per ora il sito non è inattivo e le spese crescono mano a mano che crescono gli utenti. Facebook, tanto per darvi un'idea di che business c'è attorno, ha ricevuto dai venture capital circa 40 milioni di dollari tra il 2004 e il 2005, Microsoft nel 2007 ha investito 246 milioni di dollari per avere solo l'1,6% del capitale. Oggi Facebook è il quinto sito più visitato. al mondo. Abbiamo parlato di dati personali, se ne discute anche in Parlamento, dove si sta esaminando il decreto sulla data retention e sulla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico. Lavoro e discussione delicata, perché è necessario, lo si dice spesso, trovare un giusto equilibrio tra la tutela dei dati personali e la disponibilità di questi dati per le indagini di polizia, dati fondamentali appunto quando succede qualche cosa, e oramai internet e le comunicazioni mobili sono strettamente legate a un po' a tutto quello che noi facciamo, e quindi sono dati utili per le indagini di polizia. Si discute anche delle modifiche da apportare alla legge sull'editoria, che attualmente definisce prodotto editoriale anche un sito personale. In rete da tempo si discute del problema, e per il 2, 3 e 4 dicembre è stata organizzata su internet una campagna per sensibilizzare anche il mondo politico sul tema. L'ultimo disegno di legge proposto è quello del deputato Roberto Cassinelli, che distingue tra siti di informazione professionale e siti personali o amatoriali, come appunto sono i blog. Una notizia che riguarda il mondo del Creative Commons, un nuovo sistema per la tutela del diritto d'autore, ne abbiamo parlato anche a 2024, anche la Federazione della Musica le utilizzerà le Creative Commons per le classifiche dei dischi più venduti, che potranno quindi essere diffuse su siti personali in internet senza alcun problema. Adesso parliamo della giustizia italiana. Il ministro della giustizia Angelino Alfano e il ministro della funzione pubblica Renato Brunetta si sono accordati per lanciare un progetto che dovrebbe fare entrare nel mondo digitale il sistema giustizia. Il ministro Alfano lo spiega così. Parto da questa apparente banalità per dire che le nostre città, molte nostre città sono cablate, molte nostre case hanno la velocità di internet, la gran parte dei nostri uffici hanno la velocità di internet, la gran parte degli studi professionali hanno la velocità di internet, le cancellerie dei tribunali hanno la velocità della fotocopiatrice. Questo è il concetto di fondo da cui abbiamo mosso le premesse per dire basta. Come? Con 6 progetti. Il tema di fondo su cui noi lavoreremo, e io ringrazio il ministro Brunetta che ha dal primo giorno supportato questo intendimento, anzi alimentandolo, è la dematerializzazione dei fascicoli processuali. Sia l'Associazione Nazionale Magistrati che le associazioni degli avvocati hanno lamentato il sovraccarico di procedure che, lungi dall'essere più baluardo a tutela dell'interesse dell'indagato o del cittadino coinvolto in un processo civile, rappresenta un fardello liturgico e pesantemente cartaceo sul processo. I progetti sono 6, non entriamo nello specifico. Su internet ci sono molte pagine che raccontano di questi progetti. La prima scadenza è stata fissata per maggio 2009, data entro cui i progetti dovranno essere avviati. Il piano dovrà essere operativo entro la fine del 2010, quindi vedremo se tutto andrà così come è stato annunciato. Vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile su internet, sul nostro sito www.radio24.it, e come sempre vi ricordo che potete abbonarvi gratuitamente al servizio podcast per riascoltare 2024 in formato MP3 attraverso lo strumento che preferite, quindi il vostro computer o il vostro lettore di file MP3, e soprattutto quando volete, quando preferite. Tutte le informazioni sono online, oppure inviateci una email a 2024@radio24.it. Questa settimana è stato presentato anche in Italia il nuovo telefono BlackBerry di RIM. RIM è l'azienda canadese che produce questo telefono, poco famosa l'azienda, molto famoso il marchio, il prodotto. Si chiama Storm, ci sono parecchie novità, ne parliamo con il nostro esperto di telefonia mobile, direttore di Smartphone Magazine e Cellulare Magazine, Massimo Morandi. Bentornato a 2024, Massimo, ciao. Grazie Enrico, un saluto a tutti. Stiamo parlando di uno smartphone, quindi non solo di un telefono, ma di un apparecchio che fa molto di più. Sappiamo che BlackBerry è famosa e nota per aver introdotto un sistema per erogare direttamente sul terminale la posta elettronica. Qual è la novità di questo nuovo BlackBerry che si chiama Storm? Beh, la novità è che siamo probabilmente di fronte alla vera svolta consumer di BlackBerry, un telefono che sicuramente segue la filosofia dei precedenti, ma che si rivolge a un pubblico diverso da quello dei businessmen che siamo abituati a vedere in aeroporto o quando l'aereo apre le porte, aprire subito il BlackBerry per vedere quali mail sono giunte sul loro dispositivo. E perché più consumer? Beh, innanzitutto perché è touch, e questa è la vera prima rivoluzione, un telefono touchscreen che quindi segue le mode, il trend del momento nel campo della telefonia mobile. Poi, e questo è sicuramente un pregio particolare, ha un jack, un'entrata a jack da 3,5 mm. Cosa significa? Significa che dentro c'è un vero e proprio lettore MP3 e il jack dà la possibilità di connettere una cuffia per ascoltare musica, funzione molto molto consumer. C'è una fotocamera da 3,2 megapixel e c'è il GPS. Diciamo che già con queste caratteristiche noi abbiamo inquadrato su quale mercato il BlackBerry vuole andare a colpire. Poi parleremo della tastiera, visto che ho letto, naturalmente quando vengono lanciati nuovi telefoni ci sono decine di appassionati e anche decine di esperti un po' in tutto il mondo. Io ho letto alcuni commenti di alcuni giornalisti, colleghi americani, che criticavano un po' l'assenza della tastiera, perché appunto la tastiera è touchscreen a sfioramento con questo schermo tecnologicamente avanzato. Parliamo prima però di alcune cose che forse non vanno nella direzione che molti consumatori speravano. Questo telefono viene venduto in esclusiva da uno solo operatore in Italia, e quindi questo limita forse un po', perché viene offerto con un pacchetto chiuso di servizi, email, eccetera eccetera. Insomma, parlaci un po' di questa novità. Sì, l'operatore che lo commercializzerà in esclusiva è Vodafone, e anche per questo e per altre piccole cose è stato definito la prima vera propria alternativa all'iPhone. Perché? Beh, perché anche lui è venduto da Vodafone, perché costa 399 euro libero, quindi 100 euro in meno del suo diretto concorrente venduto dallo stesso operatore, e perché comunque sembra possedere il carisma giusto per seguire le orme del successo dell'iPhone. Come sempre, quando un dispositivo è venduto in esclusiva da un operatore, ci sono tanti pacchetti a disposizione, tanti modi per acquistarlo e per utilizzarlo. Vodafone ha preferito nei suoi piani dare ampio spazio agli abbonamenti, quindi a fronte di un prezzo del dispositivo che varia a seconda del pacchetto che si acquista, quindi dei minuti di conversazione che si acquistano, si ha a disposizione un monte minuti e il traffico web e email illimitato. Questo cosa significa? Significa che sì, la svolta è consumer, ma naturalmente né RIM, quindi né BlackBerry né l'operatore vogliono perdere quella che è la caratterizzazione principale di questo dispositivo, che comunque è quello di fare messaggistica e web browsing. Quindi da questo punto di vista, diciamo, c'è un vantaggio rispetto all'iPhone, dove non esistono, almeno mi ricordo così, in Italia piani completamente flat per la navigazione su internet. Esattamente, questa è la vera e propria differenza, anche se si guarda poi nelle clausole sul sito internet di Vodafone, dove è ampiamente illustrata tutta l'offerta, si vede che c'è ovviamente un tetto antifrode oltre il quale non si può andare, che sono 10.000 minuti, ma insomma sono veramente tanti, tanti, tanti. Sì, esattamente, il limite è piuttosto elevato. Senti, non c'è il Wi-Fi, come mai? Un po' una controtendenza rispetto, insomma, a quello che offre il mercato. Ormai quasi tutti gli smartphone hanno connettività Wi-Fi, quando si trova un hotspot libero ci si può collegare, oppure anche, che ne so, all'hotspot di casa. E questo è un vero peccato, e questo è forse l'unico limite di questo apparecchio, e c'è da dire che è un limite molto frequente nei dispositivi venduti in esclusiva dagli operatori. In pratica questo è un cellulare HSDPA, quindi sfrutta tutta l'ampia banda larga dell'operatore mobile, e quindi un telefono che naviga molto veloce e che va molto veloce. Naturalmente l'accordo tra la casa produttrice e l'operatore ha fatto sì che siano e vengano preferiti tutti i minuti di traffico fatti sulla rete dell'operatore e non i minuti o comunque il traffico internet, il traffico dati fatto su un hotspot magari aperto, che non porterebbe vantaggio economico all'operatore che vende il telefonino. Dunque, la tastiera, molti sostenitori del BlackBerry hanno sempre detto che una delle cose belle di questo telefono, di questo smartphone, è la tastiera. Molto facile scrivere i messaggi, tant'è che appunto BlackBerry è famoso per la facilità con cui si possono scrivere le email. In questo caso che cosa succede? Che cosa hanno cercato di fare i tecnici, gli ingegneri della RIM per ovviare alla mancanza di una tastiera fisica? Ma guarda, innanzitutto bisogna dire che il telefono è stato presentato questa settimana, abbiamo potuto già iniziare a provarlo, e va detto una cosa fondamentale, che la tastiera funziona molto bene, quindi la risposta touch dell'interfaccia del telefono funziona bene. Abbiamo visto un po' sull'onda dell'uscita dell'iPhone, abbiamo visto davvero un po' di tutto uscire, telefoni che rispondevano bene, telefoni il cui display rispondeva un po' meno bene. Qui siamo di fronte a un'interfaccia molto fluida, dove tutto scorre grazie a un buon processore in maniera molto, molto fluida, appunto. In realtà qui il punto è più facile scrivere una mail agendo su tasti meccanici o è più facile scrivere una mail o un messaggio agendo comunque su un display. Qui è chiaro che chi preferisce la tastiera non vuol sentire neppure parlare di un telefono touch per fare messaggistica. In realtà questo, come dicevo, è un display che risponde bene, dà una sensazione di avere premuto la tastiera QWERTY, che appare tra l'altro in modalità orizzontale, in modalità panoramica, visto che questo è un telefono dotato di accelerometro, quindi come si sposta il telefono in una posizione piuttosto che in un'altra, il display segue quello che noi stiamo facendo, ed è un display basculante. Quando noi premiamo un tasto o un'icona, sentiamo un vero e proprio clack, che non è la solita vibrazione che viene, una sorta di piccola scossa elettrica che viene data come feedback in altri telefoni, è proprio lo schermo che si flette leggermente e ci fa sembrare che la pressione sia la pressione di un tasto meccanico. Questo aiuta sicuramente molto, anche se in tutta sincerità non possiamo dire che l'esperienza di lavorare su una tastiera touch sia identica all'esperienza di agire su tasti meccanici. Massimo, io ti ringrazio per essere stato con noi anche questa settimana, ti auguro buon lavoro, a presto. Grazie e buon lavoro anche a te. Adesso per noi c'è una breve pausa, riprenderemo tra poco con Gianluca Dettori, ospite nei nostri studi, per parlare sicuramente anche di evoluzione tecnologica, ma anche di finanziamenti per le nuove idee che nascono anche in Italia. Ce ne sono di idee, ma forse sono i capitali che scarseggiano, e ne parleremo con Gianluca Dettori, che recentemente ha fondato un fondo per finanziare queste idee. Dicevamo prima che Facebook ha ricevuto parecchi milioni di dollari dai venture capital negli Stati Uniti, e appunto non servono solo le idee. Facebook è stata sicuramente una buona, un'ottima idea, ma poi sono arrivati i capitali per fare crescere l'idea e creare un vero e proprio business. Ne parliamo tra poco. Vi ricordo che la prossima settimana, 2024, sarà dedicata al mondo delle TV piatte. Quando si va ad acquistare una TV piatta, plasma o LCD che sia, è molto difficile capire quale prodotto fa al caso nostro. Beh, cercheremo di fare chiarezza la prossima settimana. Seguiteci nel pomeriggio del sabato di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30. Questo è 2024, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, scritto in cifra, quindi 2024 e radio24.it. Potete scriverci per qualsiasi motivo, sia per suggerimenti, sia per domande particolari, ma anche per chiederci come fare per scaricare il file MP3 della nostra trasmissione. Su www.radio24.it trovate tutte le informazioni, comunque ve le diamo anche via email. Avete la possibilità di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast della nostra trasmissione andando sulla sezione podcast di Radio 24. quindi avrete la possibilità di scaricare il file e ascoltarlo dove volete, sul lettore MP3 oppure anche sul vostro computer, o come fanno alcuni ascoltatori potete realizzare un CD e riascoltare il tutto in automobile. Ma soprattutto la cosa bella del podcast è che si riascolta il programma preferito quando meglio si preferisce, quindi alla sera, alla mattina, alla notte, di giorno, eccetera eccetera. Dunque, abbiamo un ospite in studio con noi, Gianluca Dettori, fondatore di Vitaminic, grande esperto di internet e soprattutto oggi presidente di D-Pixel, fondo che finanzia le nuove idee digitali italiane. Gianluca, benvenuto a 2024. Grazie, buon pomeriggio. Oggi vogliamo parlare del mondo della rete italiano e soprattutto degli investitori, che fino ad oggi potremmo dire sono stati sconosciuti soprattutto in Italia. Vogliamo partire dalla vostra esperienza. La vostra è un'azienda molto giovane che guarda con attenzione ad altre aziende che stanno nascendo. Operate in quel mondo che viene definito del venture capital. Che cosa fate? Ma il venture capital, a parte che un giro su Wikipedia in due minuti c'è una paginetta spiega tutto, ma fondamentalmente è un ramo, diciamo, della finanza, anche se secondo me con la finanza c'entra relativamente, ma è comunque considerato nei libri di testo un ramo della finanza, del private equity, cioè sono investitori che si occupano di investire, diciamo, per farla semplice, tipicamente in startup. Io nel particolare opero in una parte del venture capital che si occupa proprio delle startup, cioè il cosiddetto early stage, quindi società di nuova costituzione. Quindi aziende molto giovani, spesso anche create da persone molto giovani. Beh sì, l'età, diciamo, non è che è un requisito per essere imprenditori di essere giovani, però più che altro la cosa è collegata ai campi in cui investiamo. Siccome noi ci occupiamo di venture capital tecnologico e ci occupiamo in particolare di, diciamo, tecnologia e media, cioè di quello che sta succedendo con le reti digitali, con la digitalizzazione dei contenuti, pensiamo alla musica, alla storia di Vitamini, che è stata un po' l'esperienza precedente un po' di molte persone del nostro team. In questi campi i giovani sono più avvezzi, ecco, molto più semplicemente sono oggi su Facebook, ecco, non necessariamente, quindi le idee imprenditoriali quindi nascono dalla consuetudine col mezzo, con quello che sta trasformando nelle nostre vite. Senti, investitori che si occupano di tecnologia in Italia è una rarità? Abbastanza una rarità, diciamo che c'è stata dopo la bolla del tecnologica che aveva fatto partire anche in Italia il venture capital, diciamo c'è stata una sbolla in Italia che peraltro non si è verificata negli altri paesi. Per qualche ragione qua in Italia si è smesso di investire mentre gli altri sono andati avanti, per esempio siamo oggi in una situazione in cui la Francia da questo punto di vista viaggia 20 volte più veloce dell'Italia, insomma, quindi si è smesso di investire. La buona notizia però è che da ormai un paio di anni che per una serie di ragioni e anche proprio per fatti contingenti, insomma, sono tornati gli investitori, si è ricominciato a guardare con una certa attenzione, poi di questi tempi, adesso si potrebbe aprire un'intera trasmissione, particolarmente ancora più significativo, a questo modo di fare impresa e a che cosa significa, a che benefici, a quali ritorni dà ad una nazione, a un sistema industriale. Ecco, in Francia oggi si investe più di 1 miliardo di euro in early stage, in startup tecnologiche. Perché tu dici che dietro a questi investimenti c'è un occhio, un'attenzione verso il futuro. Beh, fondamentalmente si parla, diciamo, i più grossi investitori storicamente nei fondi di venture capital, a loro volta i fondi sono gestiti da dei manager o da delle, diciamo, da delle strutture. Noi infatti siamo, come D-Pixel, siamo advisor di un fondo che raccoglie appunto investitori internazionali interessati a questi temi e disponibili a investire sul mercato italiano. Questi investitori tipicamente sono sempre stati fondi pensione, cioè un investitore che guarda questa asset class da un certo punto di vista, cioè allocando un certo tipo di rischio. Si dice che questi investimenti sono più a rischio, diciamo, forse questo oggi è più vero per i private equity che per i venture capital. Però fondamentalmente comunque investimenti growth, investimenti di crescita, tra l'altro super investitori che hanno un'ottica temporale di investimento di 30-40 anni, no? Quindi allocare per un fondo pensione lo 0,5% dei propri asset sul seed, sulle startup, gestite professionalmente da dei fondi di venture capital, perché è un'attività particolare che richiede competenze, richiede anche un certo tipo di organizzazione, strutture. Occorre appunto, no, cioè, come dire, non è una roba, non solo, come dire, è una roba probabilmente che ha un senso, ha un senso. Peraltro stai dicendo sto investendo sulla generazione che mi pagherà i contributi dei prossimi 30 anni, no? E diamo a questa generazione che oggi ha 30 anni, 30, 35, 40 anni, a volte 25 anni, abbiamo visto anche dei team che di età media hanno 23, 24 anni, sono quelli più creativi, devo dire, tipicamente, e questa vuol dire investire fondamentalmente sui tuoi figli. Sì. Senti, a proposito di team e di startup, se esistono gli investimenti, mi sembra di capire che esistano anche le idee, i talenti in Italia, nel nostro paese, anche se gli investimenti sono pochi. Beh sì, diciamo, però il problema è che le idee in Italia sono depresse, cioè il problema è che non bastano le idee, non è come dire, c'era un amico che mi si faceva fare le nozze coi fichi secchi, mio papà anche ha sempre detto questa frase, anche si può fare la nozze coi fichi secchi, cioè per fare Google non è che si può andare lì con tante belle buone idee e tanta buona volontà. Cioè, c'è dietro al fenomeno di aziende come Facebook, un'azienda fatta da uno che ha 24 anni, c'è dietro un sistema di investitori organizzati, ci sono dei mercati borsistici, c'è il Nasdaq, ci sono le banche, ci sono, come dire, una serie di operatori che tra l'altro ci vivono degnamente, ci possono vivere degnamente di questa cosa. E che fondamentalmente però hanno generato, mi pare, negli ultimi solo 10 anni qualcosa come 7 milioni e mezzo di posti di lavoro negli Stati Uniti, e parliamo di posti di lavoro di un certo tipo, però attenzione, perché non possiamo pensare di competere. Le idee sono equamente distribuite nel DNA di tutti gli esseri umani. Io lavoro con degli indiani di Surat, città di 4 milioni di abitanti, che c'ha un solo volo il giovedì per Nuova Delhi, quindi vuol dire stai un po'... Sì, un po' isolato. Neanche, sì. Magari stare a Ro. Sì, sì. Stai a Surat. Vabbè, questi fanno software. Questi fanno software e lo vendono online. C'hanno clienti, non c'hanno neanche un cliente indiano, siamo italiani, danesi. Li prendono online i lavori, si negozia il prezzo, tu con 2000 euro fai un sito. Questo qua, io gli ho chiesto, ma tu che, com'è questa cosa? Cioè, noi ci conosciamo in chat alla fine, dopo un po', perché si comunica così, noi, cioè, la cosa più semplice è Skype. Lui conta sui clienti in base al Messenger. Dice, ah, ne ho 3 su MSN, ne ho 2 su Google, tu sei l'unico che ho su Skype, eccetera. Insomma, per dire, quindi non c'è una ragione per cui l'indiano, l'italiano, il francese, l'inglese, lo svizzero, com'è? Quindi è il contesto che fa la differenza. E qui si apre tutto un tema ovviamente ampissimo, che vuol dire oggi caldissimo, le università, il sistema dell'educazione e anche i valori che vuole trasmettere. Perché quindi una cosa è l'aziendalismo, una cosa è l'imprenditorialità, cioè una cosa è la finanza degli anni Ottanta, un'altra fare imprese. Cioè, insomma, vuol dire l'agenda complessiva di una nazione, vuol dire in Francia queste cose succedono perché, al di là dell'amministrazione che è gestita con sani criteri di fini pubblici della gente, proprio anche con una regia intelligente sopra, che le cose si sa come vanno fatte, non è, francamente, a dire la verità, cioè, basta, leggiamo tutti Wikipedia, ma non è che il venture capital se lo sta inventando Dettori. Esiste da 40 anni, Microsoft, Intel, migliaia di aziende, Procter & Gamble, possiamo fare una lista. Senti Gianluca, però guardando la realtà italiana, voi che cosa state vedendo? Tu dici le idee ci sono, gli imprenditori ci sono. Scusami, però... sono stato generico, entriamo nello specifico. No, anche perché voi perché siete forse nati da tocchiamo poco. Con mano, forse... Tocchiamo con mano cosa vuol dire, adesso avrei mille storie da raccontarti, magari se avremo occasione... anche in serate, in ore notturne per lungarci i racconti, ci sono secondo me anche le belle le storie della rete, di quello che succede sulla rete, sì. Cosa diventa nella vita, insomma. Però dal punto di vista imprenditoriale noi abbiamo guardato, e noi siamo molto verticali, come vedi, non siamo generalisti, diciamo un altro operatore di venture capital molto più importante e grande di noi, 360 Capital Partners, un fondo a 100 milioni che fa early stage, quindi fa investimenti più grandi dei nostri, noi facciamo seed capital e proprio... Quindi piccoli investimenti per noi per facciamo per proprio iniziare. La parte iniziale, sì. La parte iniziale che è quella più complicata perché richiede competenze non di finanza, ma di industriali. Che è difficile sulla base di un prototipo software capire se hai trovato una tecnologia che può sconfiggere il cancro al colon. Cioè, sì, sì, sì. Richiede un certo tipo di tempo, diciamo, di costruire, anche capire, di lavorare sul proprio concretamente. Comunque, 350 progetti sono quelli che abbiamo visto uno al giorno nell'ultimo anno solo nel digital media. L'ho raccontato a degli investitori francesi, ripeto, in Francia si investe 1 miliardo di euro l'anno in questo campo, noi in Italia un ventesimo. Quindi proprio, tra l'altro appunto loro vedono, tra l'altro c'è una vicinanza culturale, come dire, loro ci vedono un po', come l'Africa, ma non siamo l'Africa, non so come dire, no? Assomigliamo un po' più alla Turchia che non all'Inghilterra, però siamo anche gli italiani, insomma, quindi sì. Cioè, io ho avuto investitori francesi, gente degnissima, molto seria, molto in gamba. Insomma, è un'ora di volo, 350 start-up non le vedono neanche loro in Francia. Cioè, noi abbiamo più start-up che capitali, loro hanno più capitali che start-up. Stiamo parlando di investimenti e tecnologia. È con noi Gianluca Dettori, presidente di D-Pixel, lunga esperienza nel mondo di internet. Dunque Gianluca, abbiamo detto che in Italia ci sono, come del resto un po' in tutto il mondo, le idee, ma in modo particolare nel nostro paese mancano i capitali per finanziare queste idee in ambito tecnologico. Tu prima parlavi della digitalizzazione dei contenuti, della digitalizzazione in generale. Che cosa possiamo prevedere per il futuro, per i prossimi mesi, i prossimi anni? Saranno i capitali ad arrivare o invece saranno le idee che andranno a cercare i capitali? Qui entriamo in un tema molto delicato, è un altro di quei grandi argomenti di cui si parla. Diciamo, è evidente che non siamo in grado di attrarre talenti. Su questo forse non è il caso di siamo abbastanza d'accordo, non abbiamo proprio, se non per il mare, le cose, ma allora per le scuole di turismo va benissimo, ma nell'high tech non credo che se tu devi fare la lista ti viene in mente Milano. I capitali esteri, e qui entriamo su un tema delicato, perché diciamo, gli investitori internazionali hanno mille opzioni oggi. Ci sono aree dove si fanno veramente i soldi, che sono l'India, la Cina, cioè da quel punto si entra a livello internazionale nella competizione, e devi guardare all'Italia e che cosa vedi? Lo raccontate tutti i giorni voi, siete voi giornalisti. Diciamo che forse dalla strada, da un uomo della strada come me, forse lo raccontate anche con, diciamo, con softness, con una certa gentilezza, però insomma la situazione è abbastanza allo sfascio. Insomma, adesso no, io sono tra l'altro un ottimista di natura, però oggettivamente guardare l'universo, andare a Stanford, io consiglio, ho fatto l'altro anno, insomma, di farsi un giro. Io basta fare una passeggiata. Ma io ho fatto, sono andato a Stanford, sono tornato che ero su Marte. Cioè, senti, però il fatto che voi siate nati, siamo nati e sta nascendo il settore. Attenzione, diciamo le good news. Le good news sono queste qua. È nato negli ultimi due anni, si è ricominciato a investire. Sono state lanciate nuove startup, sono stati fatti investimenti da fondi venture capital. Noi stessi abbiamo fatto già 7 investimenti. Ci sono più di 200-250 milioni che verranno investiti di capitali, diciamo, fondamentalmente privati. Se ne aggiunge probabilmente almeno il doppio se guardiamo anche i fondi di emanazione bancaria che stanno nascendo, molto interessanti. Finalmente il Monte Paschi ha lanciato un fondo da 44 milioni, Banca Intesa ha ricominciato a occuparsi di venture capital. Probabilmente vedremo anche i gruppi industriali risvegliarsi, perché oggettivamente è sotto gli occhi di tutti che, diciamo, l'innovazione tipicamente viene fuori dalla grande azienda. E quindi è molto più semplice, meno rischioso e anche più, diciamo, da un punto di vista di innesti, di crescita, di fatti innovativi, lo trovi più in due ragazzi, in tre ragazzi che hanno 25 anni oggi, che non in un grande gruppo editoriale, per esempio. E quindi, diciamo, basta mettere in giro un po' di M&A, un po' di attività, di potenziali, di acquisizioni, e si può rapidamente fare le cose che non abbiamo fatto negli ultimi 10 anni. Però, diciamo, abbiamo 10 anni solo con i francesi da recuperare. Senti, si parla oggi molto di video. Voi, tra i progetti che avete visto e forse anche finanziato, c'è un'azienda che fa video. Quali altri settori emergenti tu vedi a proposito di digitalizzazione? Ma dunque, allora, noi abbiamo investito in Glomera, una società di Torino, una startup fondata da un imprenditore seriale, Stefano Colonna, un ragazzo che abbiamo avuto ospite qualche settimana fa. Ecco, benissimo. Allora, vi ha raccontato la loro storia. Insomma, qui il tema del video, siamo solo all'inizio, diciamo, quindi è effettivamente molto early stage questo, è seed, però è indubbio che ormai noi passiamo molto del nostro tempo su internet a guardare dei video. Sta diventando un po' anche un modo di non solo di informarsi, ma anche di divertirsi. Cominciano a vedersi interazioni tra il video e il web, un video che lancia un link, un video in cui contestualizzato, mentre ti racconto la stagione della scala, poi ti parlo anche che su Viva Ticket puoi comprare il biglietto. Insomma, c'è tutto un mondo da esplorare. Un tema che noi, su cui noi stiamo parlando moltissimo, è il tema del crowdsourcing. Adesso qua si dovrebbe aprire quasi una trasmissione, veramente è un tema affascinante. E tra l'altro annunceremo in questo area un investimento che è una delle cose più interessanti che ho visto, devo dire, forse nell'ultimo anno. Spieghiamo di che cosa stiamo parlando. Io consiglio Wikipedia Crowd, CROWD, che vuol dire folla, sourcing, diciamo come dire outsourcing, però l'outsourcing delle folle. C'è un bellissimo libro di Jeff Howe, che è l'inventore di questa parola, un giornalista di Wired. A Wikipedia ci ha dimostrato, facciamo un esempio concreto, Wikipedia ci ha dimostrato una roba. Che ci sono 1 milione, se non sbaglio, di contributor volontari che hanno scritto 30 milioni di entry, che sono diventate la più grossa enciclopedia del mondo. In Wikipedia è uno dei 10 siti più visitati di internet. E Encarta non ha più senso oggi come prodotto. E quindi diciamo, prende quello spazio di mercato lì. Però Wikipedia non è un prodotto. Io, diciamo, sono anche tra i donor dell'organizzazione, perché vive delle donazioni per pagare i server, le robe, è una roba volontaristica. Però hanno dimostrato che il prodotto, da un punto di vista di prodotto, funziona, di processo funziona. Cioè si può produrre un prodotto editoriale, adesso parliamo di radio, vogliamo parlare di giornali, parliamo di un'enciclopedia, una roba, si può produrre organizzando il lavoro di 1 milione di contributori esterni alla tua azienda. Anche interni. Tu sei Enel, c'hai 300.000 persone organizzate dentro i dipartimenti, le robe, però c'hai anche un mondo probabilmente di 900, un network, un social network di altre 600.000 persone tra i fornitori, certo, le cose, certo, eccetera, tutti questi processi che... La tua community, potremmo chiamarla. Però diciamo, oggi il crowdsourcing ha un sapore, se ne parla tantissimo su internet, sai, sono quelle buzzword che nascono, no? Perché in effetti, bim, un attimo tu vedi, si parla di social networking, no? Però il crowdsourcing ha tutto un altro flavor. Cioè, possiamo crowdsourcizzare dei processi aziendali? Questa la scriviamo. Abbiamo 3 miliardi di persone attaccate a una rete digitale. Facciamo un esempio concreto. Tu sei online, io e te non siamo qua presenti. Tu sei online, stai per prenotare un viaggio perché vuoi andare a fare kitesurf a Santo Domingo. Tu non lo sai, ma intorno a te c'è uno dei massimi esperti probabilmente nel quartiere di kitesurf a Santo Domingo, il cui presente è Gianluca Dettori. Sì. Che si è anche riuscito a devastare su una bellissima spiaggia che è la migliore spiaggia al mondo, secondo me, per fare kitesurf. Io ti posso raccontare tutto di quella roba lì, dove comprare, non portarti l'attrezzatura, comprare lì che c'è uno shaper che fa delle ali fantastiche, costa niente, ti risparmi tipo con $200 tipo un'ala fantastica. Sì. Ti racconto per 2 ore di andare a mangiare i ribs in riva a spiaggia, quel ristorante, vai in quell'albergo, fatti la rope assistance come me, che quando ti spacchi un braccio lì ti fai l'operazione in anestesia totale, eccetera, eccetera. Ti faccio risparmiare dei soldi, ti dico come fare. Ma lo dai, diciamo, se sta roba ti costa 1 euro, non lo dai 1 euro di SMS? Sì, sì. O no? Allora, tutti noi siamo degli esperti nei nostri campi, ne abbiamo delle competenze, abbiamo vissuto bene le robe, ma queste informazioni non erano mai accessibili. Oggi sono attaccate alla rete. Basta solo renderle evidenti e farle matchare. Pensa al customer care. Sì, sì, sì, sì, sì. Pensa a cosa si può fare, crowdsourcizzare un customer care. Milioni di cinesi che per 50 centesimi al giorno, che lì ci fai i soldi, vai in discoteca, ti compri la macchina, ci state, stanno tutto il giorno tranquillamente un'ora a spiegarti, anche tranquillamente, perché c'hanno lo stesso telefonino tuo, non perché si sono letti in manuale. Ci state investendo voi? Cioè c'è qualcuno in Italia che sta... Ti vorrei mandare questa startup, tra poco faremo l'annuncio del lancio, sta per partire, è uno dei progetti veramente più affascinanti, ma ti ripeto, è affascinante il crowdsourcing, no? È bello il lato che questi... perché di crowdsourcing ne parla tantissimo, Zopa è una startup italiana, sì, sì, fa crowdsourcing, però se ne parla tutto in questo, diciamo, con questo contesto un po' anni 60, internet, volemose bene, no? Figli dei fiori, diciamo scenari best effort, volontari che fanno Wikipedia. Sì, ma io sono un'azienda, io c'ho una persona adesso al telefono che se non gli do la risposta su come fare la tracotomia, quello lì c'ha un problema e ci abbiamo un problema tutti quanti. Okay. Quindi è bello il best effort, ma se io c'ho un problema mission critical devo definire quando me la dai Wikipedia e quanto mi costerà, hai bisogno di tecnologie particolari e questi ragazzi stanno sviluppando questo. Quindi tu dici industrializzare Wikipedia. Io potrei avere una fabbrica, cioè io sono stato a Pechino, ho comprato un cappotto in cashmere a 80 euro fatto su misura da un sarto, me l'ha dato il mattino dopo. Sì, sono tornato a Milano, che le camicie, sono tornato a Milano, ho fatto vedere a una mia amica e ho detto: scusa, a Milano questo quant'è? Ah no, ma guarda, questo a Milano 1000, chi mi ha detto 1500, sì, sì. Mi ha scritto su Facebook un'altra mia amica, dice: ma allora quel cappotto funziona ancora, è ancora intero? Dico: guarda, è bellissimo, di cashmere, ternoset. Ma cosa ci mette a crowdsourcizzare una fabbrica di sarti cinesi, milioni di sarti cinesi che te la fanno su misura, te la mandano via DHL a 16 euro direttamente a Milano? Ti mando il sarto a casa, prendo le misure, cioè così è stato. Un professionista, un sarto, mi ha preso le misure, boh, te le mando via internet, te la metto sul form, dopo, il giorno dopo mi arriva il DHL con il mio cappottino, 80 euro più le spese di spedizione e le misure. Gianluca, oggi ci hai lanciato anche delle idee per prossime trasmissioni. Questo lo trovo interessante, per esempio come tema di investimento c'è il tema del mobile, io sono anche nel consiglio di amministrazione di Mobango, il mobile sta cambiando, poi vengo da un'esperienza, comunque Buongiorno Vitamini, fondamentalmente mix tra web e mobile, ho fatto acquisizioni nel mobile 2 anni quando ero director di Buongiorno Vitamini, quindi il mobile sta cambiando molto rapidamente e sta diventando un altro animale, assomiglia a un odore, un sapore un po' più simile al web di prima, ma è sempre un'altra cosa, però stanno succedendo tante cose in questo cambiamento e l'iPhone, se vogliamo, è un po' diventata la bandiera di sta roba. Bene Gianluca, grazie per essere stato con noi, visto grazie che ci hai lanciato alcune idee, cercheremo di sviluppare nelle prossime settimane. A presto. Buon pomeriggio. In effetti quello del crowdsourcing è un tema molto moderno, molto nuovo, ma estremamente interessante. Ed è tutto per questa puntata di 2024. Io sono Enrico Paglierini, grazie per averci seguito anche in questa puntata che troverete su internet sul nostro sito www.radio24.it in modalità podcast, potete scaricare la nostra trasmissione e riascoltarla quando preferite. Grazie anche a Luigi Borghi in redazione, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete scriverci per qualsiasi motivo. 2024, scritto in cifra, quindi 2024 e radio24.it. Noi torniamo la prossima settimana con una puntata speciale dedicata al mondo delle TV. Quanti dubbi vengono nel momento in cui vogliamo scegliere, decidiamo di comprare una nuova TV piatta, al plasma o LCD che sia, insomma il mondo è molto complicato, cercheremo di semplificarlo la prossima settimana, sempre il sabato. E a proposito di questa puntata potete appunto inviarci le vostre email e i vostri dubbi. Ci sentiamo tra 7 giorni, sempre nel pomeriggio del sabato di Radio 24, tra le 15.30 e le 16.30. Buon ascolto. You are disconnected.